Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. La bancarotta della banca d'affari americana Lehman Brothers coinvolge almeno 100.000 risparmiatori italiani. La stima è delle associazioni dei consumatori, anche se una quantificazione più dettagliata dovrebbe arrivare, ma non abbiamo ancora notizia da parte del comitato di analisi finanziaria che è riunito a Roma sotto l'egida del ministro Tremonti, il comitato di stabilità finanziaria, anzi esattamente. Ma a parte ogni possibile quantificazione, quello che ci interessa capire e analizzare questa mattina a Salva Danaio è l'impatto delle conseguenze fra questi risparmiatori di questa grave crisi finanziaria americana che coinvolge a vario titolo molte grandi banche di investimento. I piccoli investitori italiani, come abbiamo spiegato anche la settimana scorsa e come continuano a spiegare anche molti giornali in questi giorni, hanno in portafoglio obbligazioni Lehman o polizze strutturate o index linked indicizzate appunto a questi titoli. Molti di questi risparmiatori rischiano di perdere il loro investimento, la banca è tecnicamente in default anche se sta vendendo le proprie attività in base alla procedura fallimentare americana, e le associazioni dei consumatori in Italia e il mondo legale si sono già mossi per individuare le strade dei possibili recuperi di questi investimenti, ma la situazione è difficile ed è soprattutto differente a seconda del tipo di investimento che si è sottoscritto e che conferisce dunque possibilità di recupero molto diverse. Oggi ritorniamo a fare il punto della situazione, una situazione che è comunque molto variabile e ancora fluida, perché non si sa bene effettivamente appunto che tipo di possibilità di rimborso, dicevamo, si possono avere, perché questo dipende esclusivamente dal tipo di investimento che si ha. Allora, il punto della situazione oggi lo facciamo con Francesca Vallone, vicepresidente di Federconsumatori, con il professor Edoardo Spano, avvocato in Milano e professore di diritto commerciale all'Università di Parma, e con la collega Federica Pezzatti di Plus 24 del Sole 24 Ore, per analizzare differentemente obbligazioni Lehman Brothers e polizze vita e indicizzate appunto a questi prodotti, perché sono due cose diverse. 800 24 0024 è il numero verde che vi dà l'opportunità di porci i vostri quesiti direttamente interagendo con noi, oppure ci potete scrivere come sempre al 349 238 6666. La borsa, abbiamo già dato qualche anticipazione poco fa nel corso del giornale radio, stamattina tenta la strada del recupero, ma non riesce più di tanto questo rimbalzo europeo che era un po' più consistente ad avvio di seduta. Adesso Parigi sta guadagnando appena lo 0,05%, Francoforte lo 0,22%, Londra lo 0,21%, Milano un po' più consistente il rialzo, ma insomma più 0,38% è quanto riesce a mettere a segno in questo momento l'S&P MIB a Piazza Affari, MIBTEL più 0,25%, in una giornata che vede qualche recupero proprio nell'ambito bancario ed assicurativo. Mediolanum, me ne parleremo questa mattina, sta guadagnando il 3,57%, Alleanza più 2,55%, segue il rimbalzo di 2,5 punti di Parmalat. Abbiamo poi le banche popolari, il recupero è Telecom più 2,23%, sembra si sia fatto avanti per entrare nel capitale un fondo sovrano libico, la società smentisce, domani c'è un consiglio di amministrazione, vedremo se valuterà o meno questa strada. E poi Prismian più 1,90%, Generali più 1,81%, tra i ribassi meno 2 per Tenaris, per Fiat meno 1,5 punti per Buzzi Unicem e per Ubibanca, per Unicredit meno 1,30% per l'Espresso. Lasciamo la borsa, andiamo immediatamente al tema di questa mattina, continuiamo a monitorare le conseguenze fra i risparmiatori italiani del crack della Lehman Brothers. Dopo l'uragano che ha colpito i mercati finanziari, è l'ora di quantificare i danni. Banche, assicurazioni, fondi italiani, ma anche piccoli risparmiatori sono impegnati in questi ultimi giorni su un fronte comune: verificare l'ammontare delle proprie esposizioni nei confronti di Lehman Brothers, la banca d'affari americana che ha trascinato nella sua bancarotta azioni, polizze assicurative e obbligazioni. Ed è proprio su quest'ultime, in particolare su quelle impiegate nella costruzione dei cosiddetti index linked, prodotti assicurativi in cui l'assicurazione o la banca non si assumono il rischio di un eventuale fallimento delle obbligazioni sottostanti, che si intravedono i rischi di contagio maggiori. Tanto che il caso Lehman è stato esaminato ieri dal Comitato Esecutivo dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici. In particolare, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 1 miliardo e 500 milioni di euro l'esposizione delle assicurazioni italiane verso le obbligazioni della banca d'affari. Una cifra non proprio confortante, ma nemmeno così allarmante, secondo l'ANIA, da compromettere la tenuta del sistema. Nel frattempo, le singole compagnie assicurative si stanno facendo avanti per rassicurare i propri clienti. Dopo Unipol, che ha già garantito la restituzione del capitale investito alla scadenza del contratto, resta da vedere come si comporteranno le altre compagnie. Ma nonostante le prime rassicurazioni, le associazioni dei consumatori sono già sul piede di guerra. L'obiettivo? Chiedere la nullità dei contratti con i quali sono state acquistate le obbligazioni emesse dalla banca d'affari, che in Italia, secondo l'ADUSBEF, ammontano circa 1 miliardo e 600 milioni di euro. Ma non è tutto. Alcune associazioni dei risparmiatori sarebbero infatti pronte a partire con le prime cause di rimborso nei confronti degli istituti di credito che hanno venduto i prodotti contenenti titoli emessi dall'ex colosso bancario statunitense. E nel mirino ci sarebbe anche l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, responsabile di non aver provveduto in tempo a togliere i bond emessi da Lehman Brothers dall'elenco delle obbligazioni a basso rischio, come previsto nell'accordo Patti Chiari. 800 24 00 24, numero verde che vi dà l'opportunità di interagire con noi. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Buongiorno e benvenuta al professor Edoardo Spano, avvocato in Milano, dicevamo, professore di diritto commerciale all'Università di Parma. Ben trovato a Salva Danaio, professore. Buongiorno. Buongiorno, grazie anche a Federica Pezzatti, collega di Plus 24, che non faccio che chiamare ultimamente per commentare questa situazione che sta maturando. Lei sta facendo uno screening molto dettagliato a tutte le polizze in circolazione nel mercato italiano, non tanto per capire quante ce ne siano tra i portafogli dei risparmiatori italiani, ma quante soprattutto abbiano in qualche maniera un legame con queste banche di investimento americane, nella fattispecie con Lehman Brothers. In questo momento manteniamo sotto i riflettori particolarmente questa banca, che è sotto la procedura del cosiddetto Chapter 11 della, appunto, procedura fallimentare americana. Buongiorno a Francesca Vallone, vicepresidente di Federconsumatori. Buongiorno. Tra le associazioni dei consumatori che hanno già avviato iniziative per intentare cause di rimborso contro le banche che hanno venduto questi prodotti. Cominciamo con Federica, perché come dicevamo nella scheda, ieri l'ANIA ha riunito il suo comitato esecutivo qui a Milano. Ovviamente non c'è stato nessun commento ufficiale rispetto a questa situazione, non è stato neanche ufficialmente quantificato l'importo delle polizze vita indicizzate a titoli Lehman in circolazione, quindi emesse dalle assicurazioni italiane. È emerso qualcosa di interessante rispetto a questa riunione di ieri, Federica? Sì, diciamo che l'ANIA, come al solito, non è sempre molto cauta nel fare dichiarazioni di qualsiasi tipo, anche perché è emerso che all'interno del mondo assicurativo ci sono tante anime, quindi diciamo che non c'è sta ci, è stato segnalato anzi un po' di, come dire, di maretta tra le varie compagnie, quindi non, naturalmente un'associazione che comunque rappresenta tutti i player non prende posizioni né a vantaggio di nessuno dei giocatori in campo. C'è maretta fra le compagnie perché qualcuno perché ha già detto che rimborserà. Certo, diciamo che accanto a Unipol, che per un discorso di responsabilità sociale che porta avanti da anni, fa il bilancio sociale, quindi un rischio reputazionale molto, ci sono delle agenzie internazionali che monitorano proprio la responsabilità sociale delle aziende, e uno scandalo fra virgolette simile avrebbe un impatto notevole sul rating di, appunto, della responsabilità sociale. Quindi penso anche per rendendosi conto del rischio reputazionale e anche per venire incontro comunque ai clienti, ha deciso alla scadenza di rimborsare almeno il capitale, quindi alla scadenza naturalmente, non durante il contratto. E invece viceversa Mediolanum, come sapete, ha fatto degli annunci ma non ha spiegato come e quando. E comunque, parlando dell'incontro di ieri, è emerso che il presidente dell'ISVAP, che ha partecipato, ha ricordato alle compagnie di evitare decisioni affrettate, pensando soprattutto alla stabilità delle assicurazioni. Quindi cosa vuol dire? Che siccome le index non hanno, essendo a totale il rischio a totale carico dei risparmiatori, e chiaramente le compagnie non hanno dei ratio patrimoniali, ossia non hanno delle garanzie di capitale per rimborsare questi soldi, per cui Giannini, che appunto è il presidente dell'ISVAP, ha ufficiosamente, lo riporto, ha raccomandato di non esporsi più del dovuto, perché per l'authority che sorveglia proprio la stabilità delle compagnie è più importante il bilancio, insomma, degli attivi e dei passivi che evidentemente risolvere magari la questione dei risparmiatori in modo prudente e cauto, ecco. Quindi insomma dipenderà da quale sarà la verifica della singola esposizione da parte della compagnia di assicurazione rispetto a questi prodotti. Naturalmente se una compagnia è molto diciamo che quelle che hanno il più pesante onere sono Mediolanum, Unipol e probabilmente anche CNP Unicredit, gruppi che adesso non valorizzano neanche pubblicamente il valore delle quote di queste polizze. Tu le definisci le quotazioni fantasma? Sì, nel senso che poi sono scomparse le quotazioni, quindi i risparmiatori non possono neppure uscire, a parte Allianz che appunto ha deciso di quotarle, e quindi i risparmiatori, anche se appunto ufficiosamente non sono in tanti a farlo, non hanno ancora chiesto riscatto. Ecco, io non so se sia più sensato, francamente non sono di quelli che dice conviene fare questo, conviene fare quello, perché in questi casi solo il tempo potrà vedere cosa succede. E infatti ogni tipo di commento e anche ogni tipo di suggerimento sul comportamento da adottare è assolutamente prematuro. Professor Spano, lei, lo ricordava proprio Federica Pezzatti che l'ha intervistata sabato scorso per Plus 24, è stato il primo legale in Italia a vincere una causa contro la più grande banca italiana il crack Parmalat, e ha ottenuto anche in primo grado la nullità di una polizza index linked di un altro gruppo assicurativo. Che cosa le suggerisce tutto quello che sta succedendo in questo momento nel nostro paese a causa di questa bancarotta americana? Beh, evidentemente sono stati sollevati una serie di problemi. Prima di tutto ritengo che bisogna effettivamente, come diceva lei prima, la situazione è ancora fluida, valutare quale sia la situazione attuale di Lehman, sia perché almeno in teoria si potrebbe anche arrivare a una dichiarazione di fallimento limitata, diciamo, all'attività italiana, cosa che io ritengo assai improbabile, però non è assolutamente da escludersi. In ogni caso bisogna che si verifichino delle inadempienze evidentemente sui prodotti emessi in Italia. Quindi, e nella vendita di questi? Prima bisogna vedere se per esempio le cedole di prossima scadenza evidentemente non saranno pagate, probabilmente non lo saranno, però bisogna attendere che ci sia una esternazione della insolvenza. E per quanto riguarda le polizze, anche bisogna vedere qual era il ruolo, perché siccome le polizze sono congegnate ognuna in modo molto diverso dalle altre, bisogna vedere qual era il ruolo di Lehman in quella polizza, se era un ruolo semplicemente determinato, per esempio un valore eccetera, quindi qualche cosa che non ha un risvolto patrimoniale, allora il problema è evidentemente risolvibile. Se invece c'è un risvolto patrimoniale, quindi appunto bisogna vedere se c'è una inadempienza e quando si manifesterà questa inadempienza. Per esempio lei accennava al fatto che non venga, da alcuni giorni non venga dato il valore attuale della polizza, però molte di queste polizze prevedono per esempio che in casi eccezionali si possa sospendere appunto l'enunciazione del valore della polizza, quindi questo tutto sommato rientra in una previsione del contratto. Quindi ripeto, prima di tutto per l'immediato bisogna valutare quando e in quali casi ci sia l'inadempienza, poi dopo naturalmente discutiamo dei rimedi dei risparmiatori, che evidentemente sono assai diversi se si tratta appunto di obbligazioni o se si tratta invece di polizze assicurative. Faremo poi il punto anche sulle obbligazioni, intanto vorrei capire anche come si stanno muovendo le associazioni dei consumatori. Francesca Vallone, vicepresidente di Federconsumatori, ancora buongiorno. Tra l'altro buongiorno. Questa mattina anche lo abbiamo disturbato in una giornata complicata, sta prendendo un treno, ma sono sicura che rimarrà volentieri lo stesso con noi per tutta la durata del programma. Allora, voi avete intrapreso iniziative diverse, tanto per iniziare il vostro presidente Trefiletti, ma molte iniziative del genere sono state prese anche da altre associazioni, ha chiesto direttamente alle compagnie e alle banche italiane il grado singolo di esposizione rispetto a questi prodotti. Invece agli associati, ai consumatori, che cosa state suggerendo di fare? Di muoversi con prudenza come stiamo indicando noi al momento, oppure siete più incisivi e già più diretti? No, noi ormai abbiamo esperienze Parma, Cirio, Bonn, Argentini, quindi, e quindi ormai già mettete le mani avanti, consolidato un protocollo. Consolidato. Quindi noi abbiamo strutturato una lettera generica, non sa ancora se nella sua polizza vita o nel fondo di investimento è inserito una garanzia Lehman. quindi noi abbiamo fatto una lettera per cui chiunque ha un fondo di investimento o una polizza vita chiede alla propria banca di conoscere l'esposizione Lehman all'interno del prodotto che ha acquistato. Dopodiché c'è un'altra lettera per chi è in possesso di obbligazioni Lehman, e quella è la più semplice perché si sa già quali pericoli può incorrere il suo investimento. Altra cosa, molte compagnie, per esempio le assicurazioni, hanno già avvertito i loro clienti che all'interno di quelle polizze, che sono, noi le chiamiamo ancora polizze vita, ma mi sembra uno scandalo perché sono dei prodotti di risparmio ad alto rischio, perché sono indicizzate come un qualsiasi prodotto di risparmio. La gente è ancora convinta di comprare una polizza vita, ma purtroppo si trova ad acquistare un prodotto ad alto rischio. E poi ci sono i fondi di investimento, anche lì c'è qualcuno che lo sa già, qualcun altro che no. Queste lettere a che cosa servono? Hanno l'obiettivo intanto di accedere alla documentazione, perché con la 281 legge che ha istituito il Consiglio Nazionale dei Consumatori noi abbiamo il potere di accedere alla documentazione, perché è importantissima la documentazione, perché bisogna vedere che cosa ha fatto la banca, in che modo gliel'ha presentato, perché noi già ai primi colloqui capiamo che questa volta non si tratta di una furbizia, perché c'è stato sempre il sospetto che qualcuno comprava Parmalat o Bond argentini perché gli interessi erano molto appetitosi, e qui si tratta di interessi bassissimi a livello dei bot. Quindi se uno si è andato a comprare un'obbligazione Lehman di una banca d'affari americana, in qualche modo è stato anche, io non vedo un cittadino che invece di prendersi il bot statale italiano si prende un'obbligazione americana se gli interessi più o meno sono identici. Quindi vogliamo capire perché la modalità con cui è avvenuta questa sollecitazione all'investimento dunque sarà fondamentale. Ha dato un piccolo investitore che ormai è un pensionato cosa, e gli ha venduto delle obbligazioni di una banca d'affari americana. Poi quello che è successo negli ultimi 12 mesi è scandaloso dopo tutto quello che è successo. Perché insomma in una finanza sempre più globalizzata era inevitabile, ritengo, Vallone, che succedesse anche questo. Questa è una situazione che ha portato tanti benefici al sistema finanziario ma anche tanti disastri, come stiamo monitorando ogni giorno. Detto questo, insomma, ma il qualunquismo non ci piace, andiamo un po' al concreto delle situazioni. Io direi di sentire subito un paio di ascoltatori per poi dare la pausa al GR Extra Large, alle anticipazioni del GR Extra Large, e rispondere loro dopo il nostro break. Lanfranco da Perugia, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io chiamavo in merito alle obbligazioni della Goldman Sachs, sì, che mi sono state consigliate circa un mese e mezzo fa, e io ne ho acquistate. Allo scoppio di questa problematica ho cercato di rivenderle, ma non ho trovato alcuna risposta, nel senso che mi dicono sempre che non fa prezzo o che Caboto non le vende fino a che la situazione americana non si è chiarita. Però io vedo che la banca d'affari che ha dichiarato insolvenza è quotata, come mai le Goldman no? Bella domanda, Elio, adesso ci riflettiamo. Lanfranco, anzi, Elio arriva fra un po'. Tra l'altro Goldman ha avuto abbiamo avuto in nottata notizia di un intervento diretto anche da parte del più grande investitore del mondo, Warren Buffett, che addirittura insomma ci mette del suo per così anche far circolare un messaggio un po' più di serenità tra gli investitori internazionali, e ha investito direttamente in Goldman Sachs col suo fondo di investimento. Adesso cercheremo di capire soprattutto le motivazioni per cui, se un investitore vuole disfarsi del suo prodotto, la banca non glielo consenta, anche se non c'è liquidità rispetto a questo investimento. Ancora una volta cerchiamo di fare il punto su quello che potrebbe capitare a chi ha in portafoglio obbligazioni Lehman Brothers o obbligazioni legate alle grandi banche di investimento americane che sono in difficoltà, mentre Lehman Brothers è tecnicamente in default. Ha richiesto il chapter 11, c'è un ascoltatore che ci chiede di spiegare, ma insomma ne parlate spesso, ma che diavoleria è il capitolo 11 negli USA? Banalmente, magari avvocato Spano, professor Spano, mi faccia aiutare da lei, Lehman Brothers ha chiesto protezione dai creditori, datemi il tempo di riorganizzarmi in modo tale che possa ripagare tutte i debiti che ho. Sì, in sostanza diciamo è una procedura che consente alla società, ma ci sono passate per esempio le linee aeree, United Airlines eccetera, consente di continuare l'attività. questa differenza del Parlamento italiano, che invece di norma costituisce un blocco dell'attività. Anche se abbiamo delle società italiane che tecnicamente... Però non sono state dichiarate fallite formalmente. Esatto. Mentre lì questo Chapter 11 significa quello che noi chiamiamo un'amministrazione controllata in sostanza, cioè sottoposto a determinate regole, a determinate restrizioni, però procede nella sua attività. E infatti Lehman sta tra l'altro quindi vendendo potrebbe gran parte anche delle al limite divisioni, uscirne diciamo positivamente. Vendendo molte delle sue divisioni potrebbe ritrovarsi un po' di soldini, tali per cui potrebbe anche rimborsare teoricamente i suoi obbligazionisti in giro per il mondo, ma insomma questo è ancora, diciamo, prima presto per dirlo. Le obbligazioni Goldman Sachs, che ha invece sottoscritto Lanfranco da Perugia, dice: io me ne voglio liberare, non riesco a venderle. Federica, non c'è mercato per questo prodotto in questo momento, dicevamo, non si riesce a trovare la controparte. Ma appunto questa è la segnalazione che arriva dalle sale operative, dei proprio gli addetti che sono chiamati a evadere gli ordini della clientela. Sembra che appunto anche le stesse società che fanno mercato su questi titoli, quindi anche i market maker, sembra che quei prezzi siano dei prezzi, non dico fittizi, però proprio difficili, cioè non teorici, ecco, potremmo dire teorici, nel senso che poi non si trovano i compratori, almeno questo lo segnalavano appunto degli operatori che sono addetti proprio a eseguire gli ordini della clientela bancaria. Ecco, però noi non abbiamo ragione al momento di dubitare della solvibilità futura di Goldman Sachs rispetto ai prodotti di investimento che hanno in circolazione. Questo vale per tutte, esatto, per tutte le obbligazioni delle case di investimento statunitensi, esatto, da Merrill Lynch a Lehman. Però Lehman... ammettendo, e speriamo di no, che Goldman Sachs si ritrovi in difficoltà fra qualche tempo, avvocato Spano, e questo risparmiatore ha insistito con la sua banca per vendere questo prodotto ma non ce l'ha fatta. Che cosa gli conviene fare? Intanto magari acquisire una certa priorità qualora si presentasse una finestra di uscita per, diciamo, questo prodotto. Io credo che in effetti c'è mercato ancora sull'Argentina, anche se ufficialmente le Argentina non saranno rimborsate dal governo, quindi mercato. Sì, anche volendo, se poi lì si è riaperto a quanto pare addirittura un'altra possibilità. Ecco, io credo che le difficoltà dipendano, le difficoltà di trovare una contropartita dipende anche soprattutto dagli intermediari, che sono riluttanti, in quanto data l'estrema volatilità e opinabilità dei prezzi che si potrebbero fare in questi giorni, gli stessi intermediari preferiscono astenersi, diciamo, dall'intermediare questi prodotti di tutte le banche di investimento, sia di Lehman, sia di Goldman, sia degli altri. Io penso che la prima cosa da fare sia acquisire una prova dell'ordine, naturalmente del momento, del giorno e dell'ora in cui è stato dato l'ordine, e anche perché a questo punto l'intermediario incaricato dovrà dimostrare lui, dovrà dare lui la prova che in effetti non è riuscito, e non è riuscito, che quindi, diciamo, l'inadempimento non è dovuto a sua incuria, ma è una oggettiva impossibilità. Quindi insomma il suggerimento vale per Lanfranco, ma per tutti gli altri che in questo momento nella totale incertezza del proprio prodotto di investimento vorrebbero disfarsene, insomma, ma quantomeno certifichiamo che facciamo queste visite in banca, facciamoci mettere qualche timbro da qualche parte rispetto a queste nostre richieste. Adesso sentirò di nuovo anche Francesca Vallone, ma intanto c'è in attesa da un po' Elio da Padova. Buongiorno Elio, ricordo 800 24 00 24 per chiacchierare con noi questa mattina. Elio. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io tempo fa, 4-5 anni fa, ho stipulato una polizza vita Mediolanum. Sì. Forse agganciata Lehman, forse, io non lo so. Non ce l'ha un prospetto informativo, Elio? Sì, ce l'ho. E non c'è scritto da nessuna parte? Devo andare a controllare, mi sembra di no. Io volevo sapere cosa devo fare e se devo continuare a fare i miei versamenti, se perdo qualche cosa, perdo tutto, allora, se non perdo niente. Mediolanum lavora molto con consulenti di investimento, con promotori finanziari. Lei, per esempio, in primo luogo guardarsi bene il prospetto, seconda cosa chiamare il suo consulente di investimento, magari ancora prima di fare questo passaggio a salvadanaio, per il quale comunque la ringrazio molto, Elio. Federica, in ogni caso, senza dubbio non ha comprato una index, perché se è un piano di versamenti vuol dire che è una unit, probabilmente, perché su una index, per il piano di versamento è unico, è iniziale, sì, perché basta. Perché appunto si parte con un'emissione, magari possono essere 5.000, 10.000, 20.000 euro, non so se erano euro lire, però si parte a una certa data, i premi vengono investiti in questo zero coupon, che appunto per alcuni casi è proprio uno zero coupon emesso dalla Lehman, e appunto quindi non c'è la possibilità di fare un piano rateale su una index, per cui probabilmente lui ha una unit, quindi ha un fondo, di fatto un fondo comune mascherato da polizza vita, per cui avrà una quotazione e non c'è garanzia a priori del capitale, per cui la garanzia, diciamo, di restituzione del capitale è legata all'andamento di determinati, quello che rende una quota di fondi di investimento. Diciamo che la polizza index di per sé è quasi come un bond, solo che è vestito da polizza, francamente l'abbiamo capito tutti, ed è più costosa di solito, però espone agli stessi rischi, però insomma teoricamente dovrebbe essere immune dal rischio di contagio Lehman, mentre nel caso del nostro risparmiatore quindi non c'è la garanzia del capitale alla scadenza, perché di solito appunto le unit sono aperte a tutti i rischi, e però di solito la buona notizia è che di solito sono diversificate queste polizze, quindi non hanno un solo garante, cioè non hanno una sola società che sta alla base del prodotto, ma diversificano su più emittenti, e quindi diciamo che si corre lo stesso rischio dei fondi comuni, che il di rischio solito è spalmato in sì, sostanza, esatto. Quindi poi comunque ci protegge pare, un po' di più pare l'investimento, pare che i fondi non siano più di tanto. E infatti Asso Gestioni ha tra l'altro proprio rassicurato da questo punto di vista. Professor Spano voleva intervenire, sì. Sì, beh, partendo dalla conclusione a cui è arrivata la signora Pezzatti, cioè che si tratti in realtà di un unit linked, io sottolineo che appunto il fatto stesso che questo ascoltatore non sappia quali sono i prodotti sottostanti è una delle tante innumerevoli manifestazioni di opacità di tutte le polizze che hanno degli regolamenti molto diversi uno dall'altro, ma tutte le cosiddette polizze assicurative, che in realtà sono dei prodotti di investimento con sottostanti o ICV oppure SICAP, che sono assolutamente non dichiarate, cioè più delle volte assolutamente non so, come tante altre cose che sono taciute nelle brochure, nei documenti formativi che vengono distribuiti all'atto della firma, questa è una delle ragioni di nullità o quantomeno di inefficacia di queste polizze, e questo è il motivo per cui lei ricordava all'inizio che io ho visto già una importante causa in materia, ma che tutte le altre secondo me sono destinate ad avere un esito analogo, perché in effetti le violazioni delle norme in materia di trasparenza sono talmente clamorose e talmente numerose in ciascuna polizza, anche se ripeto le polizze sono molto diverse una dall'altra, che sostanzialmente la conclusione, diciamo, della nuova dichiarazione di inefficacia mi sembra quasi certa. Quindi questo, diciamo, è un problema che si pone non solo nei confronti delle polizze legate in qualche maniera a Lema piuttosto che a Goldman Sachs, ma soprattutto in generale per qualunque polizza, anche perché stranamente, diciamo, tutte le polizze hanno avuto sempre un andamento pesantemente negativo, nonostante che anche quelle di alcuni anni fa, tipo quella di questo ascoltatore, ma anche quelle del 2000 eccetera, nonostante che abbiano attraversato dei periodi di borsa positivi, hanno sempre avuto un andamento pesantemente negativo, per cui il loro valore attuale è spesso anche inferiore al 50%. Ma si sono costruite a volte anche in modo tale che dobbiamo per forza arrivare alla scadenza del piano, qua anche la questione dei riscatti molto delicata, insomma, se usciamo prima dal piano di investimento ci costa parecchio. Indipendentemente da questo, sono costruite tecnicamente, scientificamente, in maniera che comunque il loro possessore perda, su questo non c'è dubbio. Volevo sentire Costantino da Biella e Luigi da Milano, che credo abbiano una domanda simile da farci. Costantino, benvenuto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E la professionalità che dimostrate. Grazie. Senta, io ho comprato nel 2003 una index linked emessa dalla Lehman Brothers, dalla banca Bipop, che adesso fa parte dell'Unicredit. Sì. Mi scade a febbraio dell'anno prossimo. Cosa devo fare? Ha già contattato qualcuno in banca, Costantino, così tanto per chiarire anche che cosa le dico? Ho contattato in banca e mi dice attendere. Che è un po' stato il filo conduttore anche della nostra trasmissione, Costantino. Attendo un attimo e sentirei anche Luigi da Milano. Buongiorno Luigi. Signorina, buongiorno. Grazie per la signorina. Senta, una cortesia. Io volevo dire questo. Io su consiglio della banca, perché in realtà volevo fare un'operazione di pronti controtermine, no? Però la banca mi ha consigliato di acquistare, dico nel febbraio 2008, delle obbligazioni Lehman Brothers. Io ho anche in mano un documento con la banca, con la quale la banca mi indicava di acquistare questo titolo in contrapposizione all'operazione di pronti controtermine. Io ne ho comprati 60.000 euro. A questo punto io ritengo che la banca sia pienamente responsabile di tutto questo, perché diciamo così che l'investimento è stato spinto sulla base di questo documento. Luigi, lei ha davvero un bel caso da farci commentare, e credo che piacerà molto anche all'avvocato Spano, al professor Spano, che adesso sentiremo. Devo andare in pausa, sto facendo congelare in treno Francesca Vallone, ma ho qualche domanda pronta anche per lui, ma mi piacerebbe poi subito ripartire dal caso di Luigi da Milano, perché lui ha fatto questo investimento lo scorso febbraio, quindi siamo nell'arco dei 12 mesi di tempo antecedenti alla bancarotta, e questo potrebbe essere un particolare molto importante. Francesca Vallone, vicepresidente di Federconsumatori, ci ritroviamo, l'ho fatta un po' riflettere rispetto ai casi che abbiamo ascoltato fino a questo momento, però c'era un ascoltatore che ci ha raccontato il suo caso. Non è una polizza che ricade nella casistica che stiamo affrontando questa mattina, da quello che abbiamo potuto appurare, però il momento è buono per fare un po' di check-up della propria situazione finanziaria, a prescindere dalle lettere che avete suggerito voi di inviare alla propria banca, alla propria compagnia di assicurazione. Che dice? Intanto bisogna distinguere due tipi di polizza vita o unit linked: sono quelle senior e quelle normali. Quelle senior sono a capitale garantito comunque, quindi l'assicurazione dovrà pagare anche nel caso in cui ci sia un fallimento di uno dei sottostanti, mentre invece ci sono le altre polizze che sono a capitale garantito condizionato al fallimento, la cui restituzione del capitale condizionata da altri parametri. Purtroppo quelle due polizze, una costava una cifra così insomma superiore, l'altra inferiore. Molto spesso casomai il risparmiatore che si doveva fare una polizza malauguratamente sceglie quella che costa meno e purtroppo naturalmente ha meno garanzie. Ma anche in questo caso noi riteniamo che la mancanza di informazione, la mancanza di trasparenza, la famosa asimmetria informativa tra chi compra e chi vende rimane completamente in è il grande cavallo di battaglia. Però del capo di Federica Pezzatti, di Marco Liera. Vorrei dire che quel signore che ha comprato presso la Popolare, no, la Bipop, no, l'altra banca d'affari, la Goldman Sachs iniziale, sì. Ecco, questo dimostra che le banche, quando hanno in portafoglio le obbligazioni, le vendono tranquillamente senza nessun problema. Quando invece quel prodotto sta già nelle tasche del risparmiatore, iniziano le difficoltà. Quindi vuol dire che insomma c'è una diversa trattamento dei risparmiatori, derivante dal fatto che ci sono le commissioni, perché prima dicevo tra botte e obbligazioni Lehman c'è una bella differenza di commissioni, e quindi sì, chi sta vendendo purtroppo. Però è anche oggettivamente vero, Avallone, che adesso per questi prodotti non c'è mercato, insomma si fa proprio fatica a rivenderli sul mercato perché nessuno li vuole per tutte le conseguenze appunto della grave crisi che stiamo affrontando. Però non abbiamo neanche motivo di dubitare insomma rispetto al commento che stava facendo, quando si tratta di venderle, visto se sono soprattutto remunerativi certi prodotti di investimento, ovviamente c'è anche una politica commerciale molto aggressiva da parte degli istituti di credito e si vendono con facilità. In momenti come questo è chiaro che la marcia indietro è molto più complicata. Professor Spano, l'ascoltatore che ha comprato a febbraio 2008 le obbligazioni Lehman Brothers, tra l'altro anche per le obbligazioni vale la pena rifare la distinzione fra obbligazioni senior e le subordinate, perché anche su questo punto ci sono molte richieste di chiarimento da parte dei nostri ascoltatori. Alcuni potrebbero aver diritto ad una restituzione del capitale investito, altre no. Beh, è chiaro che se sono subordinate sono appunto, hanno determinati presupposti per cui sono precedute diciamo da altre obbligazioni senior e o altre diciamo impieghi, e quindi evidentemente se il capitale di cui si dispone sarà inadeguato a rimborsare tutti, è chiaro che i primi che ne soffriranno saranno quelli subordinati, che quindi avranno molto meno chance o forse inesistenti chance di ottenere un rimborso sia pure minimo. Certamente invece questa situazione del risparmiatore milanese è molto interessante. Diciamo che in linea generale, come ho già detto appunto nell'intervista pubblicata sabato scorso, a seguito del vicende Argentina, Parmalat, Cirio eccetera, c'è stata una modifica sostanziale della, una delle tante, cioè sono state numerosissime modifiche, ma una in particolare per il caso che ci occupa oggi, per cui dati certi presupposti la banca che ha venduto una obbligazione sostanzialmente può vedersi annullata la vendita e quindi ovviamente obbligata a restituire il capitale investito qualora appunto ci sia un default nell'arco dei 12 mesi. Quindi già questo dovrebbe essere sufficiente, diciamo, per questo risparmiatore per ottenere il suo rimborso. In più lui ha chiesto qualche cosa in più, esatto. Molto, molto di più se vogliamo, di maggior peso, cioè il fatto che ha un documento in mano che dimostra che lui era in realtà intenzionato a comprare tutt'altro e che c'è stata, o è stato indotto, diciamo, a comprare questo titolo dalla banca, quindi quantomeno una responsabilità, una colpa della banca per l'accaduto è indubitabile. Questo in aggiunta, ripeto, quindi praticamente un argomento in più che rafforza quello precedente, che peraltro secondo me quello dell'acquisto entro i 12 mesi, naturalmente qualora si verificano i presupposti voluti dalla norma, già questo di per sé è sufficiente per ottenere il rimborso. Ho la sensazione, avvocato, che lei ascolterebbe molto volentieri nel suo ufficio questo ascoltatore che è incappato in questa, a questo punto, disavventura. L'altro ascoltatore, Costantino da Biella, che invece ha una index indicizzata appunto a titoli Lehman, acquistata presso la banca, ma questo ci interessa relativamente, e sta arrivando quasi a conclusione il suo prodotto, perché è stato acquistato nel 2003, credo fosse di 5 anni perché sta arrivando a scadenza praticamente. Ovviamente la banca gli dice aspetta, a questo punto chissà, Federica, se potrà. Qui bisogna distinguere se Lehman è la garante dell'obbligazione, quindi colei che garantisce la restituzione del capitale investito, o se è un titolo indicizzato. Da quello che mi sembrava di capire, era una delle polizze che ha la Lehman come garante, quindi della restituzione della parte sostanziale del prestito. In questo caso io penso che CNP Unicredit non consenta di riscattare ora, perché non pubblicando la quota aggiornata di quanto vale questa polizza, impedisce di fatto a chi vuole uscire anzitempo di riavere anche una minima parte di quello che ha investito. Quindi, se non sbaglio, scade proprio nel 2009, e allora si vedrà, a meno che Unicredit non decida, come io mi auguro, di risarcire come farà Unipol alla scadenza, ma dubito che lo farà. Perché, cioè, come dicevo, ci sono ancora più, insomma, devono quantificare quanto danno hanno in casa. Il rischio qual è? Il rischio è che incasserà quanto Lehman riuscirà a restituire. Valerio dalla provincia di Pistoia, l'ascolto volentieri, perché sennò questa mattina sembra che abbiamo veramente solamente puntato la pistola addosso a Mediolanum, e quanto pare ci stanno chiamando solo sottoscrittori di queste polizze, mentre gli 8500 di Unipol nessuno si è presentato stamattina. Salva Danaio, ce ne dispiace, ci dica. Beh, io sono un cliente di Banca Mediolanum, sì. Ho sottoscritto una piccola polizza di questo genere, non perché sono stato fortunato, ma perché nell'ottica di come mi dice il mio consulente, nell'ottica di diversificazione abbiamo posto in essere un piccolo versamento di questo genere. Ora, io voglio dire che sono stato avvertito immediatamente dal mio consulente, non ora, ma già una decina di giorni fa, quando si è prospettato questo caso. Giovedì passato sono stato invitato a vedere in televisione, su Sky, sul satellite, una conferenza stampa di Banca Mediolanum, sì, dove il presidente Avuto anche noi in diretta, Valerio. Comunque, guardi, non è che voglio in maniera maleducata chiuderla, ho 30 secondi di tempo. Comunque lei è stato ampiamente documentato rispetto al rischio del prodotto che ha sottoscritto tempestivamente, per cui questo consulente finanziario ha fatto il suo lavoro, di conseguenza poi si prenderanno le decisioni del caso. Giovanni da Udine voleva chiederci qualcosa delle poste. Federica, ti assegno davvero 15 secondi perché non ho più tempo. Hai scovato anche un prodotto venduto dato dalle Poste che è indicizzato a titoli Lehman? Allora, non è ancora dato di sapere se è indicizzato a titoli Lehman, sto cercando. Però fatto sta che non fa prezzo. Adesso Poste, siamo in attesa di chiarimenti. Scopriremo, perché... scopriremo. Grazie a Federica Pezzatti, a Francesca Valone di Federconsumatore e al professor Spano per essere stati con noi. Torneremo sicuramente la prossima settimana su questi temi. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.